Dal 17 al 20 gennaio va in scena all'Ateliersi lo spettacolo Nell'impero delle misure e io torno a parlarne con Andrea Mochi Sismondi. Ciao Andrea, bentornato ai microfoni di Radio Città Fujiko. A te e sì, gli ascoltatori. Allora, dicevamo appunto dal 17 al 20 riapre Ateliersi e con questo spettacolo dal titolo Nell'impero delle misure. Lo spettacolo esplora una poeta russa dissidente anche un po' sconosciuta. O quantomeno a me, ti va di raccontarci un po' chi era questo personaggio? Beh sì, Marina Svetaeva in questi anni sta acquistando una notorietà mondiale, è un personaggio centrale della poesia russa, considerata appunto da Pasternak la poeta che più e in maniera più radicale ha portato le istanze dell'inizio del Novecento nella poesia. È una poeta che ha vissuto sulla sua pelle e rielaborato attraverso il suo lavoro una vicissitudine profondamente estrema e profonda del suo paese. Nasce nella fine dell'Ottocento e una famiglia, lei è la figlia di un filologo che ha ricevuto anche una laurea honoris causa a Bologna da Carducci, perché ha creato il Museo delle Belle Arti di Mosca. Nel momento nel quale lei, giovanissima, si avvicina ai movimenti rivoluzionari del 1905, nel momento nel quale scoppia la rivoluzione, si trova dalla parte sbagliata in quel momento, perché sempre controcorrente e sposata con un ufficiale dei bianchi, si troverà a vivere in un'atmosfera di sospetto e costrizione che la costringerà ad emigrare. Praga, Berlino, Parigi, e per poi tornare in Russia e essere vittima delle repressioni staliniane che poi in tempo di guerra hanno portato all'uccisione di suo marito, all'internamento di sua figlia e al suo non vedere altre prospettive e quindi scegliere di uccidersi. Questo biograficamente. A livello artistico è una persona che ha un artista che ha la capacità di andare oltre la misura del linguaggio, nel senso che riesce attraverso le sue scritture, che siano versi, che siano testi in prosa, che siano articoli, a porre degli squarci di assoluto nell'esistenza, a un linguaggio quasi cinematografico, per cui è un linguaggio che si vede, che porta ad avvicinarti all'essenza delle cose, all'essenza delle relazioni tra le persone. E poi noi la leggiamo in traduzione, ma già in traduzione, soprattutto nelle traduzioni di Serena Vitale, di Pino Napolitano, è immensa, ma per chi lo legge in originale appunto è una veramente una artefice di meraviglia con le parole. La sua poetica verrà appunto indagata sul palco di Ateliersi, lo farete anche in modalità diversa, anche attraverso la musica che sarà sempre protagonista di tutto lo spettacolo. Sì, noi abbiamo scelto proprio per questo suo essere infinita, per avere infiniti livelli all'interno della propria esistenza, della propria poetica, di scomporre la figura di Svetaeva in quattro presenze. Quindi saranno in scena dalla Margherita Kebudijon, Francesca Lico al pianoforte, Angela Baraldi alla voce e Fiorenza Menni concentrato più sull'aspetto poetico e sui versi, in dialogo con la quinta figura che interpreto io, che è in qualche modo la seconda persona singolare, quindi è quel tu a cui spesso ci si rivolge in maniera dialogica. E all'interno di questa tessitura, così come spesso per i nostri lavori, che sono sostanzialmente dei concerti nel quale viene incastonata la drammaturgia, sono presenti alcune musiche che per lei erano centrali, quindi Schumann, Prokofiev, Scriabin, che hanno contribuito in maniera intensissima alla sua formazione, oltre alla presenza di Vincenzo Scorza all'elettronica, di Angela Baraldi alla voce, che attraverso le loro composizioni tessono dei fili musicali nel progetto sonoro che ha curato Fiorenza Menni dello spettacolo. Citavi la misura anche tu prima e quindi non posso che non chiederti appunto questo titolo, Nell'impero delle misure, che cosa sta a indicare, che cosa vi rimanda? Beh, viene da una delle poesie più potenti, a mio avviso, di Svetaeva, che si chiude con questi versi: cosa farò io smisurata nell'impero delle misure. Ed è proprio in questa, diciamo, frizione tra potenza dell'attività creativa e immiserimento subito nella vita quotidiana, forza nella necessità espressiva e appunto contingenze costrittorie, che si gioca questo questo sentirsi ingabbiati nell'impero delle misure, da cui parte questo impeto e questa anche raffinatezza e intelligenza che Svetaeva mette nel costruirsi un percorso che sia realmente suo. Contemporaneamente, in maniera completamente diversa, in un'altra situazione rispetto a Virginia Woolf, il suo ragionare su che cosa significa avere cura dello spazio per alimentare il proprio spazio interiore in Marina è fortissimo, molto, molto interessante. Io, Andrea, ti ringrazio per averci raccontato appunto lo spettacolo Nell'impero delle misure. Ricordo ancora una volta che sarà in scena all'Atelier C dal 17 al 20 gennaio, e in bocca al lupo. Evviva il lupo! Ciao, grazie Andrea. Ciao.